In occasione appunto del quinto anniversario del memorandum italo-libico, abbiamo presentato un documento di analisi degli effetti del memorandum, degli effetti del blocco sull'accesso delle persone migranti a forme di protezione in Libia e sull'efficacia degli strumenti di accesso alla protezione che sono stati messi in piedi in questi anni. A fronte di questa analisi, che quindi guarda allo strutturarsi, al rafforzarsi di sistemi di sfruttamento delle persone migranti che derivano anche dall'impossibilità di lasciare il paese, che è determinata dal blocco e dai finanziamenti, dagli ingenti finanziamenti alle autorità libiche da parte dell'Italia e dell'Unione Europea, e analizziamo anche come gli strumenti per permettere, a fronte del blocco, l'accesso alle persone migranti a forme di protezione, quali i programmi di evacuazione umanitaria gestiti da UNHCR e i rimpatri volontari gestiti dall'IOM, garantiscono accesso alla protezione. Ecco, vediamo che questi strumenti umanitari non possono in nessun modo essere contraltare, un palliativo rispetto all'accesso alla protezione internazionale che sarebbe garantito a queste persone se riuscissero ad arrivare in Europa. Quindi, in altre parole, funzionano molto di più, diciamo, le misure coercitive, contenitive, rispetto a quelle umanitarie. Esatto, da un lato perché ci sono dei limiti strutturali posti anche dal governo libico rispetto all'operato delle organizzazioni internazionali, dall'altro perché di per sé questi strumenti, soprattutto lo strumento di rimpatrio, diciamo, non è proprio uno strumento di protezione, no? Ma però è uno strumento che prevede il ritorno della persona nel paese da cui è fuggita, mentre lo strumento dell'evacuazione e del resettlement, quindi quello che permette a delle persone che in Libia sono considerate meritevoli di accedere alla protezione, quindi vengono portate altrove, in Niger e in Ruanda fondamentalmente, e poi da lì vengono destinati a paesi europei e non solo. Ma questi strumenti hanno proprio dei limiti interni, che sono degli strumenti che hanno una natura concessoria. Quindi, ad esempio, se una persona è esclusa dalla possibilità di accedere a un canale di evacuazione, non è che può presentare ricorso contro questa decisione. Quindi è molto diverso rispetto a una persona che arriva in Italia e chiede la protezione internazionale e si vede garantiti una serie di diritti. Quindi si tratta di misure umanitarie, non dell'accesso a diritti veri e propri, che invece sono garantiti con l'arrivo in Europa. Questo memorandum, il sistema che è fondato sul memorandum, non è migliorabile. L'unico modo per migliorare la situazione è la revoca del memorandum. L'appello voi lo rivolgete sia al governo italiano, ma anche a agenzie internazionali, appunto come l'UNHCR o l'OIM. In particolare, abbiamo visto nei mesi scorsi anche dei presidi auto-organizzati a Tripoli di alcuni migranti proprio sotto la sede dell'UNHCR. Anche queste agenzie internazionali hanno le armi spuntate in Libia? Beh, considerate solo che sono solo 9 le nazionalità che possono accedere ai sistemi di evacuazione e resettlement dell'UNHCR per volontà delle autorità libiche. Ad esempio, le persone che provengono dalla Nigeria non possono accedere al programma di evacuazione. Ma noi sappiamo che fra le persone che vengono dalla Nigeria moltissime sono donne che sono sottoposte a tratta, che in Italia avrebbero garantita la protezione internazionale. In Libia l'unico modo per andarsene dalla Libia, per sfuggire a un sistema di compravendita continua, è il ritorno in Nigeria. E quindi l'esposizione nuovamente al rischio di essere trafficati, di essere vittime di tratta. Quindi sì, evidentemente le armi sono spuntate perché la situazione non consente di fare altro. E volevo chiederle appunto anche se, la situazione che diverse inchieste hanno testimoniato di quello che avviene nei centri di detenzione gestiti dalle milizie continua a essere una situazione di violazione dei diritti umani e anche di, crimini contro le persone. Assolutamente. Sì, c'è la missione di inchiesta indipendente delle Nazioni Unite che ha di recente, qualche mese fa, definito quello che avviene in Libia come crimini contro l'umanità. Quindi il trattamento a cui sono sottoposte le persone migranti in Libia è definibile come crimini contro l'umanità. Quindi evidentemente le violenze sono atroci e ci sta anche un clima di repressione. Ricordavi dello sgombero del presidio che da ottobre fino a gennaio un gruppo, un gruppo di persone migranti riunite nel Comitato Refugees in Libia ha manifestato per chiedere a UNHCR di garantirgli la protezione. E questo nutrito gruppo di persone è stato sgomberato con la forza e molte di queste persone sono state portate in centri di detenzione.